Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Ah, ecco qui la macchinetta per fare i cupcake. Barbie, ha telefonato Teresa, sta arrivando, ci servono qui i cupcake, subito. Roberta ha messo su un vero e proprio museo, 15 metri quadrati pieni zeppi di Barbie e fashion dolls di ogni epoca e genere. E buona parte del tempo passo tra fare la spesa, una scarpina di Barbie, un vestitino di Barbie, vengo qua, glielo metto, passo il tempo. La cosa curiosa di Barbie è che è stata sempre attaccata dalle femministe come un modello, il modello classico della bionda stupida, quando invece se ci si pensa comunque negli anni 60 Barbie è stata astronauta, ha avuto la tuta da astronauta prima che la prima donna andasse nello spazio, ha fatto comunque carriera, lavorava, ecco, non era la donna che stava a casa o la mamma. Lo stereotipo della Barbie bella, sorridente, senza un grammo di cellulite, le gambe chilometriche, tanto simpatica non è, però diciamo che devi riuscire a prendere di lei il fatto, devi cercare di spersonalizzarla e darle una tua personalità. E le bambole di oggi invece cosa hanno di diverso? Le Bratz già sono più aggressive, cioè danno un'idea di femminilità proprio della ragazza. Non so bene perché mi è venuto in mente oggi trattare di questo argomento quando ne avrei avuto di ben più profondi e ben più gravi anche, di cui sono molto personalmente appassionato. Però mi sono reso conto a un certo punto, osservando il genere femminile attorno a me, osservando le tensioni, osservando i dibattiti, reduce da attenzione a violenza e in anticipo di una giornata, domani sarà dedicata a questa radio, sulla specifica violenza verso le donne, che in realtà comunque un punto in comune tutte le donne italiane ce l'hanno. È quello che bene o male, almeno una volta nella vita, per caso, con rigetto, con passione, per un periodo lunghissimo che magari dura fino all'età adulta, fino all'anzianità, hanno preso in mano una Barbie. Ora Barbie è un sintomo e un simbolo, diciamo, cosmico, non è solamente legata al nostro paese. In qualunque parte del mondo si vada, comunque c'è una bambina che ha preso in mano qualcosa che assomiglia a una Barbie, è clonata, riprodotta in maniera rozza, imitata, originale, ed epoca, fantasticamente vestita o semplicemente è coperta di pochi stracci. Comunque questa sorta di irreale pupattola ha in qualche maniera, calamitato l'immaginario di tutte le femmine. Ma in particolare, su come ho impostato la copertina di questo programma, se mi pongo il problema che donne così diverse tra loro, ho citato la Carfagna e Rosy Bindi, le antitesi totali, donne della politica, donne comunque visibili, è impossibile pensare che nessuna delle due in un momento comunque della loro vita, anagraficamente ci stanno entrambe, abbiano preso in mano una bambola Barbie, abbiano simulato con la bambola Barbie di avere un rapporto di amica, di clone, di sorella, di invidiosa antagonista o di mamma verso una figlia, anche se è molto difficile forse pensare una figlia come Barbie. Beh, qual è l'esperienza che hanno avuto con Barbie le nostre ascoltatrici? Ormai l'ho presa come una sorta di campionatura dell'umanità molto interessante, sia donne che uomini, sì, perché in ogni famiglia in cui c'è una sorella e c'è un fratello, la Barbie diventa fondamentale, diventa il terreno di scontro, diventa il luogo immaginario in cui si ristabiliscono le priorità, si ristabiliscono i territori. 800 24 0024, parlatemi oggi delle Barbie della vostra vita. Compleanno di mia nipote, così mi sono recato in un centro commerciale perché volevo una Barbie, così sono andato, insomma, a comprarla. Sono entrato in questo centro commerciale e ho trovato un reparto dedicato prettamente a Barbie. Barbie a tutto: la casa in montagna di Barbie, la piscina di Barbie, la moto di Barbie, la macchina di Barbie, il campeggio di Barbie. Io non vengono pazza. Lo yacht di Barbie, nemmeno c'ho la canna per andare a pescare. Per dire, dico io, poi capiamo così perché poi le donne crescono con delle aspettative esagerate. Normale, sono cresciuto con questa persona che c'ha tutto, normale che poi vanno sempre in cerca del principe azzurro, più che il principe azzurro il principe bancario, no? Ecco, questo è lo sfogo di un povero ragazzo che affida a YouTube la sua prece disperata. Osserva e si rende conto che esiste una costruzione fantasticamente irreale del paradiso femminile, che è la casetta di Barbie, gli accessori di Barbie, il Barbie Cosmo, che comprende tutto, tutto legato e segnato da questa sorta di carezzevole gamma cromatica che ha ispirato probabilmente i sogni di tante bambine, quanto è rimasta visceralmente legata poi alle delusioni rispetto alle aspettative di tante donne. 800 24 0024 è il numero per chiamare. Nicoletta Bazzano, buongiorno. Buongiorno. Nicoletta è autrice di Barbie, la donna perfetta, storia di Barbie, la donna perfetta, che è un libro che era uscito nel 2008 per La Terza, di cui noi abbiamo già parlato. Nicoletta è una professore associato di storia moderna all'Università di Teramo, insegna istituzioni di storia politica, economica e sociale nel corso di laurea triennale di scienza della comunicazione. Si è molto interessata di storia politico-istituzionale e culturale del 500-600, quindi ha una formazione molto profonda, ma Barbie è stato uno dei momenti importanti del suo studio. L'arriveremo in studio tra poco, perché ha scritto anche un altro libro su cui mi interesserà molto parlare, è Donna Italia. L'allegoria con cui viene rappresentata l'Italia, questa signora turrita, dai capelli neri, dallo sguardo protervo, dal seno prosperoso, questa è l'Italia. Per quanto è distante l'immagine ideale dell'Italia rispetto alle Barbie, comunque tutte le italiane di qualunque classe sociale, di qualunque aspetto fisico, di qualunque ideologia hanno comunque tenuto in mano. Sono due donne essenzialmente agli opposti. Totalmente irreali entrambe. Totalmente irreali entrambe, ed è quello che mi ha portato in un certo senso a studiarle, perché è questa la cosa divertente, studiare la norma e poi la forma che la norma prende nelle nostre vite. Chissà perché le donne reali sono irrappresentabili. Oh no, sono rappresentabili e colleghe lavorano sulle donne reali. Ma non diventano mai epiche però, chissà perché. Perché Barbie è epica, l'Italia turrita è epica. Perché sono irreali, ma forse l'epica è irreale, il vero eroe poi nella realtà c'ha sempre qualcosa che non va, il calzino Facciamo corto. Un anticipo, guarda, lo sto improvvisando adesso, ti porto a fare un salto mortale incredibile. Poniamo su due piedistalli la rappresentazione dell'Italia e Barbie e cominciamo a vedere le differenze, innanzitutto morfologiche e anatomiche. Beh, le differenze morfologiche sono tantissime. L'una è sinuosa, l'altra è statuaria, cioè sono cose estremamente differenti. Barbie non starebbe nemmeno in piedi se fosse una donna. No, cadrebbe letteralmente, mentre noi abbiamo anche avuto nel passato, quando si giocava con l'iconografia della patria, anche delle rappresentazioni cinematografiche di Donna Italia, nel senso che un'attrice, film fine 800, patriottici, estremamente legati diciamo alla tematica risorgimentale, rappresentavano simbolicamente questa donna come... È molto ottocentesca l'Italia, diciamo, anche perché il concetto della patria nasce in quel tempo. Eppure no, invece la mia sorpresa quando mi sono avvicinata a questo tema è stata lo scoprire che nell'Ottocento si rimaneggia un materiale secolare splendido, nato in posti impensati e impensabili. Noi abbiamo fatto il Risorgimento contro la Chiesa, e invece una delle matrici di questa signora, una delle levatrici di questa signora statuaria è proprio stata lo Stato Pontificio nel 500-600. Quindi insomma sorprese e anche paradossi per quella che è la nostra formazione tradizionale. Noi abbiamo bisogno però sempre di immagini femminili irreali. L'immagine femminile più reale del mondo è la più sublime immagine della nostra religione, una donna che partorisce vergine, e quindi questo va bene, con il pieno rispetto. Ma torniamo all'oggetto che volevamo analizzare questa mattina. Abbiamo visto che si muove in un universo fantastico di donne reali, ma di donne simbolicamente forti. Poi arriva Barbie, improvvisamente, cos'è, fine anni 50? Nel 59, nel nasce 59. Il 9 marzo del 1959. Chi se la inventa questa ragazzina inesistente? Ma la ragazzina non è esattamente inesistente, nel senso che è il prodotto ben preciso di una volontà di mettere un giocattolo particolare in un mercato, quello americano, che sembrava pronto ad accogliere bambine allevate a cinema, pane e cinema, no? Ad accogliere un tipo di bambola di questo tipo, con glamour, con capacità di essere chic. E in effetti è la rimodellamento, la rimodulazione di una bambola nata nella Germania post-bellica e indirizzata agli uomini, cioè un oggetto con un po' di pruderie. La bambola gonfiabile? Ma quasi. No, questa non la sapevo. Fermiamoci un attimo, 800 24 0024. Prima che noi scivoliamo nel torbido e scopriamo le radici improprie e scurrili di Barbie, ditemi quali sono i vostri semplici, banali ricordi che avete accanto a una Barbie. Cosa avete fatto voi con le Barbie? Cosa vi hanno fatto alle vostre Barbie? Allora, ritorniamo a questo punto, Nicoletta Vazzano, perché mi interessa capire. All'origine di Barbie c'è un oggetto erotico. È un gadget. Ma quanto era grande? No, esattamente uguale a Barbie. E cioè, cosa 28... ci infilavano, scusa? No, non ci infilavano nulla, oddio del cielo. Lo tenevano come simbolo, si vendeva nelle tabaccherie, era un po' una cosa, una pin-up tascabile, esatto, da tenere così in macchina, da guardare, e infatti un simulacro per ispirazione, diciamo. E una signora americana che si chiama Ruth Mosco arriva in Germania in vacanza e la sua bambina Barbara vede questa bambolina e la vuole. No, perché i tedeschi durante la guerra avevano bambole gonfiabili per i soldati, lo sai? Sì, però insomma le inventavano loro. Però questa nasce per, diciamo, un po' per pubblicizzare un quotidiano, un po' rimane appunto nelle tabaccherie. Questa bambina vuole la bambola, ma soprattutto americana, vuole i vestiti, vuole tanti vestiti per cambiare la bambola, per farle fare tutte le cose. L'idea geniale. L'idea geniale, ritornata in America, di Ruth Mosco, è di riprodurre questa bambola che non a caso ha le fattezze di Lili Marlene, bionda, occhio azzurro, nella primissima versione, e di dotarla di vestiti. E per la prima collezione con cui Barbie esordisce è disegnata da stilisti che vanno a Parigi a vedere le tendenze della moda e poi fanno riprodurre in Estremo Oriente, dove c'è una manualità spiccata e attenta alle piccole dimensioni, questi abiti come se fossero quelli delle sfilate. Quindi parigine. I primi vestiti di Barbie erano praticamente quasi fatti a mano. Sì, preziosissimi ancora adesso, fatti su, cioè tutti sono fatti su misura, ma non c'era la serialità che c'è adesso. Venivano venduti con gli accessori in una confezione che descriveva le occasioni in cui andava indossato l'abito e le occasioni. Comincia la catalogazione reale, sì, di Barbie, che è tutto: Barbie in piscina, Barbie in discoteca, Barbie sull'automobile, Barbie in motocicletta. Barbie è tutto, Barbie è ovunque. Tutto, è di qualsiasi nazionalità. Per qualsiasi stagione. È diffusa in tutto il mondo. Sì, sì. Con interpretazioni anche diverse, perché nei paesi musulmani è partita una crociata naturalmente contro la Barbie, perché le bambine prima vogliono la Barbie, a 14 anni vogliono i jeans, è questo che viene rimproverato. Quindi ha cambiato anche il costume. Sì, ha cambiato anche gli accessori. Ha il Corano e il tappetino da preghiera. Ah, esiste una Barbie musulmana? Una Barbie musulmana. Mi sembra molto singolare questa mattina, che io sono partito da una provocazione che tutte le donne italiane comunque hanno avuto una Barbie in mano. Ho domandato di riferirmi dei ricordi legati alla Barbie. Ancora, è cosa stranissima, perché normalmente c'è subito una reazione. Non c'è nessuno che abbia in qualche maniera voglia di raccontare il suo rapporto con la Barbie. Perché c'è una rimozione verso una esposizione pubblica di aver giocato con una bambola? Beh, è una bambola che comunque suscita un rapporto conflittuale, nel senso che noi giochiamo, anch'io ci ho giocato, e poco, perché non tutte le mamme degli anni 70 permettevano con facilità alle bambine di giocare con la Barbie, appunto perché era politicamente scorretta, veicolava una visione estremamente consumistica della vita, e quindi non era veramente l'ho avuta regalata da persone strane. Mia madre, malgrado io sbavassi di fronte alle vetrine, non me la comprava. E questo è un po' come i ragazzi negavano le armi giocattolo perché, esatto, istigavano la violenza. Sì. Barbie si pensava che istigasse alla zoccolaggine, qualcosa del genere, alla frivolezza, diciamo. Non era totalmente assessuata Barbie, era impossibile pensarla come oggetto di desiderio. Eppure no, veniva vista come una bambola che comunque ti abituava a un certo tipo di pensare te stessa, e per le mamme degli anni 70 questo non era concepibile, non era educativo, non era sano soprattutto. Ed ecco che Barbie comunque, al di là poi delle discussioni che causava con le persone della generazione dei miei genitori, anche da quelle della mia generazione è stata vista con un po' di perplessità, perché giustamente tu giochi con una cosa che non sarai mai, ma ti abitui a pensare quel modello come l'unico possibile. Allora, leggo qualche SMS che hanno abbandonato il velo della pudicizia. L'ascoltatrice scrivendo, mi scrive una ascoltatrice: conosco molti amici maschi che hanno giocato con la Barbie in gioventù e ancora ci giocano. Lorenzo, quanto gli uomini giocano con la Barbie? ti faccio un po' di domande. Poi la professoressa ha descritto una donna del sud, essendo lei del sud, ma al nord ci sono molte bionde. Io ho comprato una figlia, una cinquantina di Barbie con tutti gli abiti, anche una Barbie nera e pure Ken e la Skipper, che è l'altra sorellina. Quelle mia sorella le facevo saltare coi petardi. Ecco, qua cominciamo le prime torture da parte dei fratelli verso Barbie. Poi andiamo avanti, andiamo a scorrere gli sms. Ho avuto una Barbie Big Jim, ma preferivo molto di più le bambole a giocare a fare la mamma. Barbie, che nome infelice, dice Rosy Bindi, non giocava certo con la Barbie. Perché non è detto? Alice, sentiamo Alice. Oh, prima, coraggiosissima ascoltatrice. Buongiorno a tutti. Allora, io il mio ricordo della Barbie è che mia mamma un anno me ne regalò tre in contemporanea, cioè quella classica americana, quella vestita da cinese, quella cinese. Spegni la radio che c'è un po' di... È spenta la radio, io però sono in macchina, la radio è spenta. Quella cinese e quella invece che viene dall'Africa. Me le regalò tutte e tre insieme e io con le tre Barbie mi inventavo questi incontri fantastici e ciascuna raccontava delle storie che io mi inventavo perché avevo, credo, 7-8 anni, per cui non sapevo molto della Cina né dell'Africa. E mi inventavo queste storie di paesi che non conoscevo, ma ciascuna raccontava, come dire, la vita laggiù, la vita nella Cina. Aveva trovato un escamotage culturalmente accettabile, cioè ti educava alla, diciamo, multisocialità, di vedere persone diverse, una asiatica, un'africana e una europea, e in nome di una superiore unità rispetto alle differenze esteriori. Quindi tua madre aveva già fatto un salto avanti rispetto a altre mamme. Gianfranco. Eccomi qui. Ecco, l'uomo che giocava con le Barbie. No, io giocavo con Ken o con Big Jim, è lì che parte il mio problema, nel senso che le mie amichette avevano la Barbie e la cosa che mi turbava molto, sono un ragazzino degli anni 70, era che questa Barbie aveva due fidanzati, cioè stava un po' col Ken e un po' con Big Jim, rivelando... Ma Big Jim gonfiava il muscolo, era molto meglio, Big Jim... E dava il colpo di karate, ti ricordo? Faceva il colpo di karate e Ken doveva andarsene, però questa cosa che una Barbie corrispondesse a due fidanzati era già una cosa di una promiscuità inaccettabile. Già ti inquietava il fatto che una donna potesse gestire due maschi contemporaneamente? Sì, poi ho scoperto che invece può capitare tranquillamente più avanti, però sì, ma anche più, a 5 anni, a 7 anni, capire che non c'era un riferimento, non c'è un riferimento, non so se c'è un'esegesi ufficiale di quale sia poi il fidanzato vero della Barbie. Ma guarda, Big Jim secondo me a tutto era interessato, meno che alle donne, essendo un uomo di avventura. Su Ken... Sulla virilità di Ken aprirei comunque delle parentesi imbarazzanti. Beh, si può discutere sulla virilità di Ken. Nel L'hanno senso scelto che... apposta che non inquietasse. Sì, ma è proprio è provato, ci sono state prove di modellini di Ken in modo che fosse quello anatomicamente meno inquietante, quello che è stato scelto. Quanto a Big Jim, è un giocattolo fatto solo per il mercato europeo e in effetti non dovrebbe rientrare teoricamente nel mondo di Barbie. È sempre fatto dalla Mattel. Però è compatibile. Era un filo più basso. Un po' più tozzo. Sì, un po' più tozzo. Laddove Ken è esatto, ma Ken, diciamo... Però era un fascio di muscoli, gonfiava il muscolo. Ma poi Ken ha lo stesso ruolo della borsetta, insomma, diciamolo. Melog. La realtà condivisa. Ciao tesoro, come sta la ragazza più favolosa di Malibu? Esausta. Mi toccherà fare la pedicura a Teresa se non le preparo dei cupcake in 4:48. Non preoccuparti, ci sono qua io. Non trovate che sia il fidanzato migliore del mondo? È così gentiluomo. Grazie, Ken. Non mi va di perdere questa scommessa. L'ultima volta è stato terribile. Chissà perché tutti insistono scrivendomi che la Barbie più costosa è la Barbie divorziata. Su Barbie divorziata molti intendono dirmi la loro. Poi sentiremo la nostra ospite, che ricordo Nicoletta Bazzano, che è autrice della Donna Perfetta, storia di Barbie, Limbo di la Terza del 2008, che è una storica e interessata in una varia iconografia delle rappresentazioni femminili, che va da Barbie all'immagine classica della nostra patria Italia, di cui parleremo in un'altra puntata. Oggi invece parliamo di Barbie. Ma questa Barbie divorziata esiste, Nicoletta? Beh, no, la quando Barbie mai si è sposata? Non si è mai sposata. La Barbie ha una enorme collezione di abiti da sposa, ma è un po' come quella protagonista di quel film di qualche anno fa, che fuggiva di fronte a ogni altare o sindaco. Quindi si gioca al matrimonio con Barbie, ma non ci si sposa mai. Non ci si sposa mai e Barbie quindi non ha mai divorziato. Ha cambiato fidanzato. La Mattel, in un impeto di fantasia, le ha fatto cambiare qualche anno fa fidanzato e si è fidanzata con un surfista australiano. Non sappiamo. E Ken che fine ha fatto? E Ken è rimasto un po' così, un po' da solo. Si è consolato finalmente potendo indossare uno smoking rosa anche lui. Certo, sfigatissimo. Rispetto al successo cosmico di Barbie, che entrerà nella storia dell'umanità, perché quando gli UFO scopriranno i residui della nostra civiltà sotterranea, vedranno tante Barbie e penseranno che le donne umane erano fatte così, ma di Ken non rimarrà nessuna memoria. No, anche perché Ken è irriconoscibile, è un bambolotto, laddove di Barbie, anche se se ne vede una gambetta che spunta dalla sabbia in spiaggia, tu riconosci subito, è un'icona del nostro Ken tempo. Ken è senza pisello, vero? Diciamo è molto ridotto, sì, cioè, non c'è una... piccolissima protuberanza, un sì, una cosa giusto un che dai pantaloni così. Si veda, ecco. Sì, ma no, non si deve assolutamente niente, vedere dai spaccato, sì, poveraccio. Federico, buongiorno. Buongiorno, proprio in riferimento alla connotazione di sessualità della quale parlava la sua ospite prima, io ricordo, sono dei primi anni 70, la scoperta della Barbie, la scoperta piacevole, perché era il passaggio dal bambolotto delle sorelle, delle cugine, in sostanza, con le fattezze da bambino, alla prima bambola con le fattezze da donna. E questo, il fatto che avesse tutti questi vestiti, se per una bambina voleva dire cambiarli, quindi agghindarla di giorno in giorno, per un maschietto voleva dire anche poterla spogliare. E chi è di noi che non è mai andato a vedere, diciamo la verità, sotto le mutande di Barbie? È la prima cosa che facevamo da piccoli, tutti l'abbiamo fatto. Questo è un grande valore aggiunto della non Barbie. Non c'era nulla da vedere, però andiamo a vedere lo stesso. Sì, grazie. Quindi ha avuto una sua funzione, diciamo, è stata il primo approccio con una femminilità inesistente, occlusa, comunque tutti i maschietti andavano a curiosare nella Barbie. Beh, andavano a curiosare, ma poi li facevano anche tanto male, perché il dispetto più grande era quello di tagliare i capelli della Barbie, della sorella, se non metterla nel frullatore o cose di o nel microonde, come è successo. Ma in questa violenza nei confronti di questo oggetto, maschi e femmine, diciamo, sono alla pari. Perché c'è anche le femmine si accanivano contro la Barbie. Sì, sì, c'è stato uno studio proprio condotto in Inghilterra sul fatto che sulle crudeltà che vengono perpetuate sulla Barbie, appunto per distruggerne l'aspetto perfetto. Perché non corrisponde a noi, siamo diversi, chiaro. Siamo tanto diversi. Gianna, buongiorno. Pronto, pronto? Eccomi. Nicoletti, sì, buongiorno. Senta, sono Gianna, 60 anni, romana. Le voglio dire solo una cosa: non ho mai giocato con la Barbie, è una questione di gusto. Non mi è mai piaciuta, non l'ho mai trasferita nemmeno ai miei figli, spero che nemmeno. Ma perché non te l'hanno regalata? No, perché mi hanno regalato. Io già nel 60 avevo due splendidi bambolotti alto di un metro, però il tipico. Ah, quei giganti mostruosi, sì. Il tipico pupo o la tipica bambolotto Ciccio Bello. Ai tempi miei si regalava Ciccio Bello. Però è inquietante, ecco. È un incubo. No, guarda. Non è inquietante. Le volevo dire soltanto una cosa: non hanno inventato niente, carissimo Nicoletti, che lei insomma è gradevolissimo ed è insomma anche abbastanza colto, che quella la bambolina che si sono inventati, non si sono inventati niente, specialmente per noi romani, sta dentro all'urna della famosissima creperella che ci aveva la sua bambolina. Ah sì, la barborella romana. Sì, che è la bambolina romana, che non aveva fattezze da pupo, ma aveva fattezze allungate da signorina, con addirittura i lobi per mettere gli orecchini veramente dorati, quindi è un fattore culturale, però diventa una questione di gusto, che a me non piace, che però insomma nulla è motivabile, per carità, i gusti sono liberi, però dopo è stato aveva le articolazioni come un burattino creperella, culturale. Nuda era bruttissima, mentre Barbie è carina. No, vabbè, per carità, questi sono gusti, io la trovo orrenda come anche tante altre cose, quindi è una questione di gusto, che sono veramente... Vabbè, lei ce l'ha con Barbie. Gianna è di quelle che se l'avesse avuta in mano l'avrebbe fatta a pezzi. Elisa. Pronto, buongiorno, salve, sì. Chiamo da Treviso. Ecco, allora, lei è vittima della crudeltà di un fratello, quindi a questo punto diventa simbolicamente la rappresentante di tutte le violenze psicologiche che hanno subito le donne italiane per il fatto che loro difendevano come un loro possesso la Barbie. Infatti, tre Barbie mi ha fatto fuori, ho scoperto un pomeriggio, sono andata a riprenderle, gli aveva tagliato a tutte e tre i capelli a caschetto, lui e mio cugino. Invece io e mia cugina giocavamo tantissimo con Barbie, però a me piacevano soprattutto le skipper, che a un certo punto invece di essere solo delle ragazzine hanno cominciato a fargli il seno, a fargli la vita più sottile. Allora io avevo skipper e mia cugina aveva Barbie. Tipo cos'era, la sorellina di Barbie? Sì, la sorellina minore. Schiava. E qual era la differenza fra i due personaggi? Che la Barbie è già un fisico di donna adulta, mentre Skipper ha un fisico da adolescente, insomma, ancora. E poi timida, diciamo, dal punto di vista della procacità, e poi a un certo punto progredisce, diciamo, nella via del... Quindi poi cresce. Quindi tutta la famiglia completa quale sarebbe? La famiglia è molto, molto, molto estesa ed è molto spesso declinata quasi esclusivamente al femminile. Ci sono, oltre Ken, ci sono altri, c'è Alan o altri. Alan, ecco, come si collocava? Cos'era? Era un amico, era il fidanzato. Ma di Ken di Barbie? Era un amico di Ken con cui avevano ambedue il completino da tennis nei primi anni. Quindi 60. Era palese voler allargare il mercato, diciamo, a tutte le possibili declinazioni dell'affettività. Esatto. E poi c'era, ma la famiglia di Barbie è bella da un certo punto di vista perché è una delle prime famiglie amicali, nel senso che quando Barbie riunisce la sua famiglia sono tutti adolescenti di una, cioè, e sono tutti amici, oltre le sorelle. L'idea di una famiglia allargata, di una famiglia non basata su vincoli così stretti, era allucinata e anticipata nella società di Barbie. Alla fine erano tutti amici, stanno tutti assieme, avevano tutte le casette piene di accessori, ma nessuno era sposato. No, solo Barbie ha la casetta. Ken, il povero di cui sopra, e Ken era ospite soltanto, non c'ha niente, non c'ha un armadiuccio con i suoi vestitini, no. Sentiamo Nello, buongiorno. Buongiorno, sono Nello da Milano. Bravo. Io chiamo per l'esperienza che ho avuto con mio figlio. Avendo due figli, la femmina e il maschio, avevo comprato le Barbie a mia figlia, però ci giocava sempre mio figlio. No? E quindi le sue amiche di classe all'elementare, così era stato preso di mira, che tutti gli altri bambini lo scherzavano, no? Dicevo che era una femminuccia. Ma tanti ragazzi giocano con Barbie da piccoli, non è che questo significa che hanno un'inclinazione poi da grandi a vestirsi da donna, non vi spaventate. Però è stata una sofferenza per mia moglie, perché essere scherzato quando andava in giro, roba del genere. Poi invece oggi, meno male che è cresciuto, cioè lo vedo volentieri su Facebook. Beh, sembra che come Vito Catozzo, il personaggio di Drive-In, che c'era questo figlio che amava Adriano Celentano, di cui narrava le vicende virili, poi si vestiva da donna, si truccava, si verniciava le unghie, via dicendo, diceva: se mi venisse un figlio omosessuale gli sparo. Vabbè, non sarebbe un problema di quelli irrisolvibili. Comunque, tranquillizzo lei, tranquillizzo tutti i padri, i ragazzi giocano con Barbie, non hanno nessun problema, o perlomeno questo non è sintomo di nulla, capito? Esiste una possibilità che abbia un'evoluzione Barbie, proprio in conclusione di questa parte? Beh, no, si sta semmai congelando e Barbie diventa veramente una cosa per collezionisti. Quindi è l'unico soggetto eterno della nostra civilizzazione. Melog, la realtà condivisa. Dove abito io? Alla discoteca, una dune buggy e una stanza intera adibita a guardaroba. Ma tu hai proprio tutto! Tutto meno qualcuno con cui condividerlo. Ti vedrò ancora? Io ti vedrò stanotte, nei miei sogni. No! Ken, vogliamo muoverci? Barbie, vieni con me, nella mia casa da sogno. È una follia, lo so, ci siamo appena conosciuti. Per te potrei essere uno qualunque, ma quando ti guardo mi sembra che siamo fatti l'uno per l'altra. E vai, Ken! Arrivo l'otto! È indubbio, a corollario di quanto già detto e quanto sia possibile ancora dire su Barbie, che l'aspetto più oscuro, l'aspetto più fantastico, l'aspetto più insondabile sia il rapporto che lega Barbie e Ken. Una delle rappresentazioni probabilmente più spudorate di questo rapporto è stata fatta in un film proprio per bambini, che è Toy Story 3, La grande fuga, è il terzo, la trilogia del 2010, che rappresenta una sorta di paradiso terrestre dei giocattoli tartassati e abbandonati ai bambini, che poi in realtà si trasforma in un inferno gestito da un orsetto rosa dispotico, crudelissimo, cattivo Lozzo, un suo schiavo bimbo, il tipico bambolotto che andava negli anni 60, quello gigante che si metteva sul letto matrimoniale degli sposi come incitamento a una futura prole. Beh, in questa rappresentazione, fra i personaggi classici di Toy Story, appunto Buzz Lightyear, Lightyear, tutta la serie di personaggi, c'è anche Barbie e Ken. Barbie e Ken rappresentati per quello che sono, quello che abbiamo sempre immaginato. Lui è un grosso idiota, molto ambiguo dal punto di vista della sua virilità, ambiguo, molto poco definito. Lei è una pupattola intraprendente, molto frivola. Beh, questa è probabilmente una delle letture che superficialmente fanno i fratelli, gli amichetti, delle bambine che hanno le Barbie. Ma però le bambine che hanno le Barbie sappiamo che poi crescono. Il crescere significa immancabilmente mettere la Barbie nello scatolone, che è la più triste cifra dell'abbandono dei giocattoli, come in Toy Story appunto. Però poi ci sono bambine cresciute che ancora mantengono le loro Barbie, non sono riuscite a staccare questo cordone ombelicale. Una di queste è la collezionista di Barbie, Giorgia. Giorgia, buongiorno. Buongiorno. Giorgia ha un suo sito, www.giorgiaclub.com, in cui c'è, sì, una, esatto, c'è una sottodirettory dedicata proprio al collezionismo di Barbie. Ma tutte queste Barbie, sì, che vedo sono le tue? Le hai possedute veramente, le possiedi o vai raccattando foto? Sì, sì, sono tutte le mie, come no? Certo, sono le mie. E comunque non provengono da una collezione, come posso dire, dall'infanzia, quindi che è cominciata dall'infanzia, ma è recente, perché di fatto colleziono Barbie dal 98 e niente, quindi praticamente poi nel tempo è cresciuta, siamo quasi a circa 1500 pezzi. Hai 1500 Barbie? Sì. Ma ha un valore commerciale questa collezione, o è semplicemente uno strascico lungo della tua fanciullezza che non vuoi abbandonare? Valore commerciale, ma, cioè, voglio dire, se possiamo analizzarlo anche da quel punto di vista, in effetti sì, più passa il tempo, più questi pezzi della collezione acquistano proprio anche un valore commerciale. Io vedo l'angolo vintage, dove ci sono le antiche Barbie, le vecchie Barbie, che sì, come abbiamo, sì, detto, sì, è cambiata notevolmente nel tempo, sì, quindi non molto, sono mai le stesse. Sì, esatto. Diciamo che oggi, ecco, sono molto più vicine a quelle che, insomma, quelle che sono le ragazze moderne, quindi chiaramente anche il viso ha cambiato tutta una conformazione. Senti, ma mi dici una cosa però, Giorgia, chi colleziona, sì, Barbie come te, perché non colleziona anche i Ken? Perché le lascia così sole, isolate? Sono. Ah, ce l'hai una sezione? Non l'avevo visto. Sì, ci sono anche i Ken, quindi chiaramente... Certo. Ma ti è mai venuta nella tua vicenda fanciullesca, adolescenziale, adulta, l'idea dell'improprio accoppiamento simulato fra Barbie e Ken? Cioè, vengono mai messi assieme? Si studia mai cosa possano fare assieme questi due pupazzi che sembrano fatti solamente per l'ostentazione dei loro vestiti? Ma in realtà c'è tutta una storia. Comunque sia, Ken praticamente 2 anni più piccolo di Barbie, per cui è venuto dopo. Quando praticamente Barbie ha cominciato a diffondersi, parliamo degli anni 60, e quindi diciamo le bambine cominciavano a giocarci, eccetera, poi successivamente è venuto fuori anche che aveva bisogno un pupattolone, però questo, sì, pupattolone di un fidanzato. Come ripeto e come vi faccio sentire sempre prendendolo da Toy Story 3, in realtà non sempre all'altezza di un compagno che si rispetti. E qui è dove avviene la magia. Guarda quanti vestiti! Non mi avevi mai portato qua su prima! Completo tennis, missione su Marte! Guarda qui, campione di Kung Fu, eroe del campus, con gagliardetti abbinati, Figlio dei fiori! Oh, Ken! Nessuno apprezza i vestiti qui, Barbie. Nessuno. Ken, ti va di sfilare per me con qualche completo? Solo un paio. E a Ken non pare vero e sfoggia tutto il suo repertorio di abitucci, da marinaretto, uomo vestito di strass, e via dicendo, lasciandola lunga. Ma io, passando a un'altra web di un'altra ragazza anche cresciuta, che ancora rimpiange su Barbie, vedo altre immagini. Vedo un Ken nudo in piedi, Barbie inginocchiata perplessa che gli guarda le parti intime che non ci sono, perché Ken è privo di sesso. Poi, andando avanti, Ken legato, imbavagliato, Ken con la testa infilata dentro la tazza del water, Ken martirizzato. Questa è la collezione di immagini truci terrificanti di Barbie e Ken che fa Rosarita Crisafi. Rosarita, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti. Rosarita è una giornalista, è una suonatrice di sassofono, ma mi deve spiegare perché io osservo da molto tempo il suo profilo Facebook, colleziona il lato oscuro di Barbie. Beh sì, è una collezione che io trovo assolutamente ironica, a parte che c'è proprio un filone artistico che si diverte a martirizzare le Barbie, a rappresentarle in versione horror, splatter. E c'è la Barbie con cintura esplosiva addirittura. Sì, sì, sì, sì, ma ce n'è veramente di tutti i colori. Se uno fa una ricerca sul web con un po' di fantasia trova delle alterazioni di Barbie veramente sorprendenti. E la cosa mi diverte ed esorcizza anche un po' l'idea che avevamo noi da bambine di una Barbie perfetta con un guardaroba meraviglioso, un fidanzato al suo servizio e poi insomma quello che siamo diventati. Barbie sulla sedia elettrica, Barbie sì. Segata con la motosega, cioè tutto quello che i fratelli cattivi e gli amichetti cattivi facciano realmente alle Barbie. Esatto, esatto. E in effetti quando ci si confrontava con i fratelli maggiori o con i maschi della situazione, le Barbie erano le vere martiri. E segretamente desideravo anch'io fare questo alle mie Barbie, anche se all'epoca forse non era possibile. Beh, evidentemente, non era politicamente corretto. Evidentemente, Rosarita, quello che non riesce a fare l'essere umano, di sublimare i suoi istinti peggiori e non applicarli realmente sugli esseri umani, è stato fatto nel volto fatato delle Barbie. Barbie e Ken potranno farsi del male all'infinito senza che poi necessariamente chi ha vissuto con loro crescendo si faccia del male a sua volta.